Cold Fever. Almeno evitare il silenzio imbarazzante che ora domina la stanza. Corre con profumo, nemmeno la ganja che ora è nell'aria riesce a superare l'essenza. Poni troppa resistenza, sei la mia più forte sostanza, sei la mia migliore esperienza, l'unica ispirazione che dà forza alla mia pazienza di vivere una vita sempre troppo in salita. Inchiudere i progetti, i sogni in uno schiocco di dita. Sarà che i problemi li attraggo come una calamita. Sarà che la vita che ho scelto senza te non ha più senso. Sarà che vedo attraverso gli occhi di un bambino perso. Ma la forza del leone di già mi dà il coraggio di arrivare sì qua, seguirti anche nella calamita, portarti dote, solo gioia e felicità, lasciare questo sole in eredità a chi dopo di noi verrà per reincontrarsi Zion. Following the Rasta Lion, living in the life of Riot, living on with my fire, coming on back to Zion. Living in the life of Riot, following the Rasta Lion, giving on with my fire, giving on with my fire, giving on with my fire. Ya galna, stay closer to me. Ya yaki me, ya lava ma for me. Just stay together for the eternity. Love is the only solution for humanity. The only way to deliver your personality. Don't push the fake and say reality. Ya galna, stay closer to me. Ya yaki me, ya lava ma for me. Just stay together for the eternity. Love is the only solution for humanity. The only way to deliver your personality. Don't push the fake and say reality. Ora ti inseguo ad estativo. Ci sono tante emozioni sopra sto mondo, ma una è di così meravigliosa. La te faci scurta ogni tipo di problema. La te faci arria sopra la luna e tu è chirucino con un udicito. L'amore è di vagnone, l'amore è bento, ma come un ascito spiccia. E anche se ti senti nervoso quando è spicciato, non ti dimentica mai tutto che ha fatto. Tutte le emozioni e tutti questi momenti dimenticabili, non lo rinnega mai. Ya calma te closer to me, ya yagi me, ya love and buffer. Just stay together for the eternity. Life is the only solution for humanity. The only way to deliver your personality. Don't push the fake and say reality. Buongiorno. Quando t'ha già vista, t'aggiami su subito in cima alla mia lista. Ti li così da fare, ti li così da amare. Putte ogni giorno era speciale. Mi facevi scurta ogni tipo di mali. Chiudi ali che mi facevi sognare. Ricordo ancora bueno ogni particolare. Di questo amore destinato a durare. Stiamo sempre insieme come due piccioncini. Puro quando stiamo lontano eramo vicini. Quanta gente mi dicia e neanch'io di parole. Che non odiava e disprezzava male dentro il nostro amore. Ma noi non è furtia, ma pure dispiacia. È lo cuore nostro che ho forte tefagia. Eramo solo io e te sotto sta roba scia. E nessuno stanca ne facia. Lo tempo passa e cuori tu passano le ore. E sempre più sapore, via basta amore. Sapore di divino, sapore infinito. Ogni cristiano che ne dia rimani a stupito. Io e te, tuo cuore e una capanna. Ogni sera contento mi dici a nanna. Soddisfatto della mia vita effettivamente rincorosita dalla tua presenza. Con ogni male dava trasparenza. E dico ancora che questa esperienza mi è servita alla mia esistenza. Ma ora sto bene senza, riesco ancora a trovare la potenza per riuscire a continuare tra sto mondo che non ti mali. Ma sta cosa non la lasciare, continua sempre ad amare, ad amare.